A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Chi è l'avvocato del diavolo? Vi racconto una cosa. Ho avuto tra le mani questo libro il giorno dopo gli arresti Expo e la ricomparsa sulla cronaca di nomi come quello di Primo Greganti, Giastefano Frigerio e per altra veste di Cesare Previti. Quando ho visto l'autore di questo saggio Chiare Lettere, mi è sembrata una coincidenza particolare, perché a scriverlo, infatti, è un altro ex storico difensore di Silvio Berlusconi, proprio come fu Previti, ossia Vittorio Dotti. Quel Vittorio Dotti, l'ex fidanzato del Teste Omega, quello a cui l'ormai ex cavaliere offrì un giorno di diventare sindaco di Milano se avesse smentito Stefania Ariosto, il Teste Omega. È lui l'avvocato del diavolo, ma perché ricompare in pubblico ora, a 20 anni di distanza dai fatti? Desiderio di scrivere un po' la storia di quei miei anni ce l'ho da tanto tempo, però poiché io sto facendo ancora sempre l'avvocato a tempo pieno, il tempo mi è sempre mancato. Diciamo che la scintilla è stato il ventennio della discesa in campo. Io ho detto, se aspetto ancora un po' non se ne parlerà più di questa epoca, di queste vicende. E allora ho detto, vabbè, in occasione del ventennale del 94, famoso, della discesa in campo, mi sono deciso e ho messo per iscritto queste mie memorie. Ecco. È un libro di memoria con i suoi racconti. La storia di un rapporto tra me e Silvio Berlusconi che si è snodato prima in anni di collaborazione esclusivamente professionale, poi trasformatasi anche in un'adesione a un suo progetto politico e poi dopo la storia la sappiamo. Insomma, certo, ecco, sicuramente. Adesso che si è arrivati alla rottura, ecco, proprio, diciamo ecco. Che sono memorie sue, appunto, personali, che però hanno, come lei già accennato, incrociato e intersecato sia la vicenda politica di Silvio Berlusconi che quella, diciamo, giudiziaria. Ecco, lei dice l'ho scritto adesso perché adesso ci sono stati i 20 anni della sua discesa in campo. Non volevo lasciar passare altro tempo. Ecco, diciamo. Però in qualche modo il sospetto che lei lo scriva adesso che lui non è più presidente del Consiglio, anche se resta un potente leader politico, e che in qualche modo ci siano anche definiti la gran parte, quasi tutte, le vicende, tutte quelle riguardanti quella stagione, le vicende giudiziarie, viene in mente. E la parola sospetto sottintende che ci possa essere un interesse contrastante col fare il libro prima oppure un interesse coincidente col farlo adesso, invece non c'è nessun interesse né prima né dopo, semplicemente il fatto che non avevo il tempo di scriverlo. Lo capisco, e questa è una perfetta obiezione anche di tipo, diciamo, legale, ovviamente lei fa l'avvocato, ma è evidente che parlare di un presidente del Consiglio è altra cosa che parlare di un sia pur influente leader politico che però non è più presidente del Consiglio. Il libro scritto prima sarebbe stato soltanto una cosa a mio vantaggio. A lei farebbe piacere in qualche modo riconciliarsi con Silvio Berlusconi? Diciamo l'ultimo atto significativo tra me e Berlusconi, quando ci abbiamo rotto i rapporti, è stato un abbraccio. Questo ne dice già tutto. Quindi noi ci siamo lasciati sparandoci addosso. È così, è finita per le circostanze che adesso racconteremo. Però poi, ecco, dopo, vi siete salutati con un abbraccio, però appunto vi siete salutati. Cosa. Ecco, a lei farebbe piacere riprendere un rapporto, una frequentazione, non so, ha mandato il libro a Berlusconi? No, se gli piace troverà il modo di farmelo sapere, se non gli piace forse lo stesso. Non l'ho scritto con questo secondo fine, un'indicazione questa precisissima sul perché ho scritto il libro, io l'ho scritto per i miei figli e per i miei nipoti. Perché siccome all'epoca della rottura con le vicende note, eccetera, lei giusto con leggerezza ha detto che sono incrociate con i processi, a quel tempo sono state scritte tante cose sul mio conto da parte di una certa stampa e io preferisco che vengano messi i puntini sugli i, magari in ritardo, ma magari chi un domani può può leggere di quel periodo anche in chiave retrospettiva, voglio che sappia effettivamente le cose come sono andate. Lei si chiama? Sì. Mi chiamo Stefania Riosto, nata a Roma il 28/7/49, risiedo a Como, in via Martino Manzi numero 32. Eccola, la testia Omega, Stefania Riosto, in una delle sue deposizioni nei tribunali di Milano nei processi per toghe sporche. Eccola la grande accusatrice di Cesare Previti e di quella corruzione in atti giudiziari che portò all'arresto di Squillante, di Metta. Fu lei a raccontare le feste ad Arcore, dove andava insieme al fidanzato dell'epoca, Vittorio Dotti, appunto, per 16 anni avvocato di Berlusconi, di cui ha conosciuto i segreti professionali, gli amori, le ambizioni. Fu per questo che, quando proprio la sua donna divenne uno dei grandi problemi, Berlusconi lo convocò e gli disse: smentisci la Riosto e ti faccio sindaco di Milano. Come ho descritto dettagliatamente nel libro, quando c'è stata questa testimonianza della Stefania Riosto nei confronti di Previti, e precisiamo bene le cose, la Riosto non è un'accusatrice di Berlusconi, la Riosto ha fatto delle deposizioni contro Previti, poi dopo per chi agisce, certo. Sono state, è oggetto dei giudizi che sono venuti fuori dopo, e quando appunto è emersa questa cosa, è scoppiato questo caso, posso confermare che Berlusconi mi ha chiesto di smentire, forse pensando che io fossi al corrente delle cose che dicevo. Mi ha detto: guarda che io non so assolutamente nulla di quello che ha detto, come dico nel libro, e una persona seria non può smentire e neanche confermare ovviamente delle cose che non sa. A lei sembrerebbe serio che una persona dicesse: guarda, io smentisco quello che ha detto la signora Tal di Tali, non so cosa ha detto, non lo so, non so nulla, però io la smentisco. Questo non è un comportamento da persona. Ecco, però forse quello che Silvio Berlusconi non le chiese, è possibile che lei non sappia, che non sapesse all'epoca quello che la sua fidanzata dell'epoca stava raccontando? Certo che è possibilissimo, perché lei ha fatto delle deposizioni ai PM di Milano che hanno segretato tutta l'inchiesta, e io non ho mai fatto una mezza domanda alla Riosto per sapere che cosa lei dicesse, non volevo neanche saperlo. Se anche l'avessi saputo, che cosa cambiava? Se so che c'è un'inchiesta della magistratura, io rispetto la legge. Ecco, quindi però Berlusconi in qualche modo venne da lei per dirle: se hai la possibilità di smentire la teste che in quel momento stava creando più problemi a Previti e poi quindi anche a lui di conseguenza riguardo alle rivelazioni su appunto le toghe sporche, le mise sul piatto addirittura la possibilità di diventare sindaco di Milano. Sì, beh, mi buttò lì questa battuta e mi chiese: guarda, vai in televisione, fai una dichiarazione, dici che la Riosto è una persona inattendibile, fantasiosa, ecco, non voglio usare altri aggettivi adesso che sono antipatici, ma comunque io dicevo: guarda che non posso farlo perché non so cosa ha detto, e non posso io smentire qualcuno così, diciamo, alla cieca. Sono un capitolo del suo libro, è lo stesso in cui si parla di questo incontro con Berlusconi, c'è proprio un capitoletto, si chiama Le accuse della Riosto. E appunto racconto le accuse che ha fatto la Riosto, certo. Ma io sono completamente estraneo a quelle vicende lì, non è che io non sto assolutamente mettendo in dubbio il contrario, sto semplicemente dicendo che lei era un testimone d'eccezione. Io non mi sono definito tale, sì, l'editore ha accompagnato il titolo con un sottotitolo, è una scelta dell'editore. Lei non si considera un testimone d'eccezione? Io non sono il tipo che si definisce un testimone d'eccezione, non lo farei mai per come sono fatto io. Ok, è una scelta sicuramente dell'editore, perché è evidente che è l'editore che scrive la copertina, però è anche vero che il suo rapporto con Silvio Berlusconi riguardante quella stagione di cui adesso parleremo, ma anche se non sapeva nulla, come dice, ma il legame che aveva con Stefania Riosto lo rende oggi, a scelta dell'editore che condivido, un testimone d'eccezione. Io sono stato l'avvocato di Berlusconi per 16 anni, quindi sono stato vicino a lui, e questo è un libro che parte da qualcuno che stava nel suo schieramento, dall'altra parte, mentre ci sono state centinaia di libri scritti contro Berlusconi che provenivano dallo schieramento che naturalmente è il suo opposto. Condivido, diciamo, il fatto che comunque avesse un rapporto stretto con Silvio Berlusconi, altrimenti non avrebbe potuto vivere direttamente questa stagione che lei racconta. Una stagione che passa attraverso la costruzione di rapporti, del successo anche imprenditoriale di Silvio Berlusconi, poi politico, ma ci sono anche tanti racconti anche della vita personale dell'ex premier. Questo che io ho fatto un libro basato sulle cose che mi sono rimaste in mente nella memoria, e dirò che l'ho deciso anche di scriverlo finché ho la memoria, perché poi a un certo punto verrà meno anche quella. Dalla sua memoria rimergono oggi i ricordi del giorno in cui Paolo Villaggio si sdraiò per terra davanti all'ufficio di Berlusconi, o dell'inizio dell'amore tra l'ex premier e Veronica Lario. Ma dalla memoria di questi 20 anni emerge anche una riflessione. È richiesto come un patto di sangue, dice, nell'entourage più stretto di Berlusconi. Almeno questo avveniva all'epoca. E anche oggi è così? A ciascuno il suo. Smentisci l'Ariosto e ti faccio sindaco di Milano. Quando la Teste Omega si era tramutata nella grande accusatrice di Cesare Previti e di un mondo che 20 anni fa ruotava intorno a Silvio Berlusconi, questa offerta fece l'ex cavaliere a Vittorio Dotti, all'epoca fidanzato proprio di Stefania Ariosto e per 16 anni uno dei legali di Berlusconi, che aveva coinvolto anche nell'avventura di Forza Italia. Dotti era l'avvocato degli affari leciti, Previti di quelli illeciti, raccontò Stefania Ariosto. Eppure questo ricorda ora l'avvocato del diavolo, titolo delle memorie di Vittorio Dotti, colui che 20 anni fa era il fidanzato della Teste Omega e che per questo ruppe i rapporti con Berlusconi, perché non l'aveva smentita in aula, come invece gli era stato chiesto. Solo da lì è derivata la rottura. Solo da quello. Appunto, per cui non è un aspetto, certo, un aspetto secondario. Una rottura, ecco, ricordiamola anche ai nostri ascoltatori, perché appunto sono fatti lontani nel tempo. Tutto quel capitolo che lei richiama, cioè, si svolge tutto nel giro di 15 giorni, un mese, basta. Allora di processi contro Berlusconi non ce n'erano. Sono venuti fuori dopo. Certo, però ci furono le dichiarazioni. La mia storia va dal 79, quando ho conosciuto Silvio Berlusconi, al marzo del 96. Quello che è successo dopo io non c'entro, io lo racconto perché è un fatto, sono fatti di cronaca, conosciuti, eccetera, ma non c'entra nulla con la storia. Sono riferimenti per contestualizzare la vicenda, e questo mi è molto chiaro, però appunto volevo arrivare semplicemente al momento della rottura tra lei e Silvio Berlusconi, sì, dovuta innescata dalle dichiarazioni della sua ex fidanzata Stefania Ariosto. Ecco, no, direi innescata dal fatto che io non ho acconsentito a fare quello che lui mi chiedeva, cioè di andare a smentire qualcuno di cui non sapevo assolutamente il contenuto delle dichiarazioni. Berlusconi in qualche modo, secondo lei, non le aveva creduto? Non aveva creduto che lei non avesse elementi per andare a smentire? Non credo che sia quello, assolutamente. Non credo che sia quello. E perché, secondo lei? Perché per Berlusconi un rapporto di amicizia, un rapporto ci deve superare tutto, invece per me no. Cioè, qui sono modi diversi di concepire le regole della convivenza civile. Cioè, io penso che se c'è una legge che impedisce a una persona di rivelare che c'è un procedimento sottoposto a segretazione, o se c'è una legge che te le impedisce di fare una dichiarazione falsa perché sono cose che lei non sa, eccetera, lei non la può fare, anche se glielo chiede il suo miglior amico, addirittura se persino se glielo chiedesse suo fratello, certo, non lo può fare, capisci? Invece ci sono altri che hanno una concezione completamente diversa, cioè la concezione per cui il rapporto di amicizia supera tutto, il patto di sangue supera tutto. Ecco, io invece non la penso così, io sono molto più laico nelle cose e mi comporto di conseguenza. Quindi in qualche per modo me viene prima di tutto il rispetto delle norme di legge che vigono, chiunque era tenuto a rispettarle, e io le ho rispettate come tanti altri le rispettano, non è che mi arro di essere certo, sacerdote, cioè della ci legge. Si aspettava. A me sembra un comportamento assolutamente normale. Cioè le si chiedeva in qualche modo di andare a fare una smentita in nome del legame che univa lei e Silvio Berlusconi, e non in nome di quello che lei effettivamente sapesse. Semplifichiamo, ma è un po' così la cosa. E il suo entourage fatto di gente soprattutto come lui, che la pensano così, oppure strumentalmente la pensavano così, e prendeva come, tu sei il suo avvocato, il suo amico, eccetera, eccetera, vai, devi dirlo, quello racconta balle, chi ragionava in questo modo ragionava evidentemente con lo stesso imprinting così di tipo viscerale che le ho appena descritto. Ha parlato di patto di sangue. Patto di sangue evoca quasi un legame come quello che c'è nei clan insomma malavitosi. Per farmi capire, ecco, no, era efficace come idea. Il rapporto di stretta amicizia, il rapporto di confidenzialità, di collaborazione, eccetera. Che dovesse andare al di sopra di. Dal mio punto di vista, certamente non poteva travalicare fino a diventare un comportamento che, appunto, dal mio punto di vista, era del tutto illegittimo. Ma invece, secondo lei, nell'entourage di Silvio Berlusconi, in qualche modo si richiede questo tipo di comportamento? No, allora, in quell'occasione, certamente. Un giro stretto, diciamo, i più vicini a lui, dei più vicini a Previti, eccetera, si aspettavano, volevano che io tenessi quel comportamento. Però anche Cesare Previti era appunto un avvocato di Berlusconi. Certo che era un avvocato di Berlusconi. Lo so, ci ha mai pensato al fatto che eravate entrambi avvocati di Berlusconi, appunto uno ha avuto condanne anche definitive per il comportamento. Per qualche cosa che lui ha fatto, certo. Ha fatto perché i processi lo hanno accertato. Certo, sono sentenze definitive, certo, però anche lì forse maturate nello stesso entourage, nello stesso giro, in nome di quello stesso forse patto di sangue che lei evocava poco fa. Può darsi, io non lo so, posso solo immaginarle. Io mi occupavo di cose civili, di contratti, di cause. Anzi, lei, come lei stesso cita, riportando una frase, credo che fosse proprio di Stefania Ariosto, che diceva Cesare Previti si occupa degli affari illegali, Vittorio Dotti di quelli leciti. Questo l'ha detto Stefania Ariosto. Si riconosce in questa frase? Io non assolutamente, io posso solo ripetere quello che le ho già detto. Io per Berlusconi ho fatto un determinato tipo di lavoro, che erano cause civili, che erano contratti, che erano società, e questo è il mio lavoro, punto e basta. Se questa è stata la conclusione del suo rapporto con Berlusconi, ci racconta com'era cominciato invece? Sono stato presentato a lui da Marcello Dell'Utri, perché era Marcello Dell'Utri, l'ho conosciuto qui all'Università di Milano, io ho frequentato la statale qui a Milano, anche Dell'Utri veniva in statale e l'ho conosciuto così. Poi gli ho dato una mano in una situazione sua in cui aveva bisogno di essere difeso da un avvocato, dopodiché mi ha voluto presentare Berlusconi e da lì è nato questo rapporto con Berlusconi. Dopo la laurea ci siamo persi di vista per anni e anni, lui mi ha ripescato 20 anni dopo o qualcosa del genere. Non posso non chiederle che effetto le fa adesso appunto leggere di tutte le vicende sull'estradizione, sulla condanna di Dell'Utri, semplicemente allora, da lettore. Allora Dell'Utri mi sembrava un compagno d'università, tra l'altro anche simpatico, e basta, tutto lì. Poi lui mi ha presentato Berlusconi e da lì è partito il mio rapporto personale con Berlusconi. Quindi in qualche modo gli adesso, deve anche una forma di gratitudine. Mi sembra tutte cose strane, ma ovviamente un umana dispiacimento per forza c'è, me lo ricordo così, scrivo nel libro quando sono stato a trovarlo, lui e la moglie appena era nato il primo bambino, che gli ho fatto io le fotografie da piccolo che era in braccio alla madre, cioè, sono quei piccoli quadretti familiari e di conoscenza personale che naturalmente presuppongono un tipo di conoscenza ben diverso da quello che poi verrà fuori in anni e anni di vicende pubbliche. Ma lei si è meravigliato in qualche modo quando ha visto e ha letto tutto l'esito del processo a Dell'Utri? Certamente, perché Dell'Utri così non è certo uno che aveva l'apparenza di essere fuori legge, assolutamente. però io mi inchino davanti ai risultati delle inchieste, dei processi, eccetera, eccetera. Io mi chiaro. Nel Berlusconi di oggi si ritrova ancora qualcosa del Berlusconi che ha seguito da più da vicino del momento della discesa in campo? Allora non avrei pensato a una politica tesa soprattutto alla difesa dei propri interessi di parte, che poi sono diventate delle esigenze di carattere processuale. Perché se pensiamo la principale attività dei governi Berlusconi è poi stata quella di difendersi dai processi. Ecco, questo, se mai avessi potuto immaginare una cosa del genere, certamente non sarei disceso in campo nel 94, ma allora non era nemmeno ipotizzabile questo, non era prevedibile, insomma. E rispetto all'ipotesi che lei racconta nel libro della sua discesa in campo dovuta anche al debito gigantesco nei confronti delle banche, lei scrive si parlava di oltre 4.000 miliardi di lire, una vera enormità. Allora si diceva che i debiti verso le banche del gruppo erano di quell'entità. Si parlava, si diceva, lei pensava che potesse esserci un legame tra questa difficoltà delle aziende e la discesa in campo di Berlusconi? Ma non è mai stato oggetto di discussione tra me e Berlusconi, assolutamente. Ecco, lui come le raccontò? Sono voci che circolavano, le ha dette addirittura con Falonieri. Lui come le raccontò la sua decisione di scendere in campo? Lui ha sempre col suo slogan, dice se vanno i comunisti al governo ci vogliono fare fuori, mi vogliono morto, insomma queste erano le sue uscite. Quanto poi ci fosse di verità sostanziale o di esagerazione in questo, io lo lascio giudicare agli altri e alla storia. A volte Berlusconi, diciamo, è stato anche mal consigliato? Dal mio punto di vista in tante occasioni è stato mal consigliato, lungo tutta la sua esistenza. Lui è sempre stato circondato da tantissima gente che può essere stata anche animata da interessi personali. E lui ha rappresentato un traino, lui ha rappresentato uno strumento politico decisionale molto forte. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, e sul blog Storiacce. Su Twitter invece, se vi va, scrivetemi a Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.